surgery. Il dottor Steinman dice che mi dimetterà oggi. Ryan non è mai venuto a trovarmi dall'attacco di Capodanno. Neanche una volta. Ma il dottor Steinman è stato molto premuroso. Mi ha detto che una volta rimosso il tessuto cicatrizzato, mi rimetterà a posto. Mi farà più bella di qualunque ragazza abbia mai visto. È proprio dolce. E molto interessato al mio caso. Un altro Capodanno, un'altra notte da sola. Sono fuori e tu sei bloccato a Hephaestus al lavoro. Sai che sorpresa. Credo che mi farò un altro drink. Un brindisi a Diane McClintock, la ragazza più stupida di Raptor. Così stupida da innamorarsi di Andrew Ryan. Così stupida da... Sto sanguinando. Oddio, che sta succedendo? Steinman, so che il padiglione medico è il tuo regno, ma ti invito a riflettere su questo punto. L'acqua dell'oceano è più fredda delle tette di una strega. Se le tubature non vengono riscaldate, gelano. Se le tubature gelano, si crepano. Se le tubature si crepano, a Raptor si aprono delle falle. Capisco che sei uno snob e francamente me ne frego se pisci o vai a pescare. Ma se si aprono delle falle a Raptor, è la fine. E in quel caso dirò a Ryan che ringraziare. Sulla superficie, il parassita si aspetta che il dottore lo curi gratis. Si aspetta che il contadino lo sfami per pura carità. C'è ben poca differenza con il depravato che si aggira per le strade in cerca di una vittima da violentare per il proprio grottesco spasso. Sono stato informato che alcuni abitanti hanno scoperto dei modi per manomettere i distributori. Quei vandali incoraggiano la povertà. Vorrei ricordare a ciascun abitante di Rapture che la libera impresa è il fondamento della nostra società. I parassiti verranno puniti. Ciao, Brand. Ti dispiace dirmi perché hai un buco sul muro del cesso delle dimensioni di Plymouth Rock? Da ormai 3 settimane? Ora, io non dico di essere Shakespeare, ma sto cercando di dirigere un teatro rispettabile. Ho dei lavoratori in arrivo da Port Neptune, in cerca di un piccolo svago, e non riescono a pensare ad altro che alla puzza che esce dal tuo cesso. Falla aggiustare. Test clinico lotto 44, dottor Suchong. Cliente Fontaine Futuristics. Il soggetto è un maschio bianco, tale Roland Wallace. Mi sente, Mr. Wallace? Sì, dottor Soo-Chung. Molto bene. Ora le presento il lotto 44. L'abbiamo soprannominato Furore per la tendenza a... Infermiera! Infermiera, lo tenga fermo! Infermiera! Infermiera! La Tenenbaum. A volte quella poveraccia mi fa pena. Un'immaginazione così limitata. Contenta di starsene lì tra taniche di Adam a regolare, ottimizzare. Io ho bisogno di creare. L'Adam è la tela della modificazione genetica, ma i plasmidi sono i colori. Test clinico lotto 23, dottor Soo-Chung. Cliente Fontaine Futuristics. Il lavoro sul plasmide telecinesi procede bene. Alzare oggetti a distanza non è un problema. Spostare oggetti nello spazio non è un problema. Non è possibile fermare i proiettili, ma si possono afferrare e lanciare oggetti con forza. Il problema non è il plasmide, ma il tempo di reazione. Ho appena avuto l'idea per un nuovo plasmide. Non solo che le bambine sono delle vere fabbriche di Adam, sono quasi indistruttibili. Rigenerano qualunque lesione con versioni staminali delle cellule morte. Ma la relazione con le lumache impiantate è simbiotica. Togliendo la lumaca, l'ospite muore. Quindi non si può considerare omicidio, ha detto la Tenenbaum. È più come togliere il supporto vitale a un paziente terminale. Afrodite si aggira per le sale, lucente come un bisturi. Steinman, mi chiama Steinman, ho quello che stavi cercando. Apri gli occhi. E quando la vedo, lei mi taglia in 100 meravigliosi pezzi. Un ultimo tocco, fatto. Quel naso è meraviglioso, dottor Steinman. Dottore? Sai, ora che la guardo, mi ero reso conto di quanto fosse cadente quella faccia. Bisturi? Mi scusi? Bisturi? Dottore, non è prenotata per un lifting? Su, non perdiamo tanto. Dottore, la smetta di tagliare! Dottore! Dottore, la smetta di tagliare! Chiama il primario! Chiamami il primario! Subito! Ryan e Adam. Adam e Ryan. Tutti quegli anni di studio. Ma ero davvero un chirurgo, prima di conoscerli. Andavamo avanti a colpetti di bisturi e di moralismo spicciolo. Sì, potevamo togliere un foruncolo di qua e limare un naso a beccolana. Ma eravamo realmente in grado di cambiare qualcosa? No! Ma l'Adam ci dà modo di farlo. E Ryan ci libera dalla falsa morale che ci frenava. Cambia aspetto, cambia sesso, cambia razza. Il corpo è tuo. Fanne ciò che vuoi. L'Adam presenta nuovi problemi per i professionisti. Migliorando gli strumenti, gli standard si elevano. Una volta per essere contento mi bastava togliere un paio di verruche o trasformare un fenomeno da circo in qualcosa di presentabile alla luce del sole. Ma erano altri tempi, quando ci arrangiavamo con quel che c'era. Ma con l'Adam la carne diventa creta. Quale scusa abbiamo per non modellare, modellare e modellare finché il lavoro non è finito? Sono bello, sì. Guardami, come potrei migliorare i miei tratti. Con l'Adam e il bisturi Ho avuto una trasformazione. E se si potesse fare di meglio, se non fosse l'abilità a mancarmi, ma l'immaginazione. Quando Picasso si stancò di dipingere persone, iniziò a raffigurarle come cubi e altre forme astratte. Il mondo l'ha chiamato genio. Io ho passato la mia intera carriera chirurgica facendo e rifacendo le stesse cose. Il naso all'insù, la fossetta nel mento, il seno maggiorato. Non sarebbe magnifico se potessi fare con un bisturi ciò che il vecchio spagnolo faceva col pennello. Oggi ho pranzato con la dea. Steinman mi ha detto: sono qui per liberarti dalla tirannia del luogo comune. Sono qui per mostrarti un nuovo tipo di bellezza. Le ho chiesto: che cosa intendi, Dea? La simmetria, caro Steinman. È tempo che si faccia qualcosa sulla simmetria. Perché abbiamo due occhi? C'è qualche legge che ci obbliga? Due braccia, due gambe, due orecchie, due seni. Ero ad Auschwitz. Avevo solo 16 anni quando scoprì il mio amore per la scienza. Il dottore del campo conduceva esperimenti. Un giorno commette un errore scientifico. Io gli dico dell'errore. Il dottore si arrabbia molto, ma poi chiede: come fa una bambina a sapere queste cose? Io gli dico: a volte lo so, e basta. E lui urlando: e allora perché me lo dici? Beh, rispondo io, se hai intenzione di fare queste cose, almeno le faccia bene. Ad Auschwitz mi mettono al lavoro su esperimenti genetici su altri ebrei. Mi chiamavano das Wunderkind, la bambina meraviglia. I nazisti non sanno parlare d'altro che di occhi azzurri e della forma della fronte. A me interessa sapere perché uno nasce forte e un altro debole. Uno intelligente e un altro stupido. Con tutto quel massacro, pensi che i nazisti fossero interessati a scoprire qualcosa di utile? Allarme di sicurezza in corso. Accesso limitato temporaneamente. Grazie per la comprensione. Disponibile per un periodo limitato, prendi il tuo plasmide gratuito al Dandy Dental, offerto da Ryan Industries, per ogni carie curata. Scegli tra dimagrimento e telecinesi. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Get right quick. Try PlasmaQuick. PlasmaQuick. Your body, your way. Andrew Ryan asks you a simple question. Are you a man or a slave? The parasite hates three things: free markets, free will, and free men. The parasite has his eye on rapture. Keep your eye on the parasite. Atlas is a friend of the parasite. Don't be a friend of Atlas. Rumor is the tool of the parasite. Fontaine is dead. Rapture lives. Approaching a little sister is a criminal offense. Do not approach the little sisters. The smuggler is the friend of the parasite. It is your duty to report the smuggler. Ignore the lies of Atlas and his parasites. Rapture is on the rise. Andrew Ryan reminds us, we all make choices, but in the end, our choices make us. We all move the great chain. And the great chain moves us all. Un parassita si aggira per le strade. Noi ricostruiamo la nostra città. E gli scettici vogliono metterci una mosca nella minestra. Mille Adam all'uomo, alla donna che gli tarpa le ali. Those little sisters, they carry Adam. The genetic material that keeps the wheels of rapture turning. Everybody wants it, everybody needs it. Se incroci un'altra di quelle macchine Gatherer's Garden, cerca di recuperare un paio di nuovi plasmidi. Sembra che non costino troppo. Cristo, ma chi credi di essere? Annie Oakley? Ti mando un altro paio di colpi con il tubo pneumatico. Usa l'elettroscarica contro quelle torrette. Va tutto bene? Sembra che il mondo intero stia crollando. Non so davvero come, ma ce l'hai fatta. Adesso raggiungimi a Port Neptune. Non vedo l'ora di stringerti la mano. A che punto sei? Entra dall'accesso di emergenza appena arrivi. Ryan ti sta osservando. Non lo sentirai arrivare, ma sarà lì prima che tu te ne renda conto. La tipa con gli uncini e quella macchina volante sembrano uscite da un racconto di fantascienza. Qui sotto ti abituerai presto a cose del genere. Ricorda, tutte le macchine andranno in cortocircuito se le colpisci con elettroscarica. Ricombinanti! Vai col doppio attacco, fulminali e poi colpisci! Ricorda, un bel 1-2! Hai bisogno dell'Adam trasportato dalle sorelline. Più Adam, più plasmidi. Credi che il vecchio elettroscarica sia roba tosta? Non hai ancora visto niente. Mia moglie Moira è una vera rompipalle, ma è uno schianto e significa tutto per me. Mi sento maledetto da Dio per avere portato lei e Patrick in questo posto. Credevo che ci avrebbe offerto una vita migliore, ma si può essere più stupidi di così? Prova un piede di porco o qualcosa del genere, per cortesia. Quei dannati ricombinanti hanno chiuso dentro Johnny prima di... maledetti. Ti troverai bene qua giù. But before you even dream of towing it with a big daddy, we're gonna need to toughen you up. Stalle lontano, o il prossimo a essere colpito sarai tu! Calma, dottoressa, sta solo cercando un po' di Adam, il minimo indispensabile. Non gli permetterò di fare del male alle mie bimbe! Tranquillo, amico, quella non è una bambina, non più almeno, merito della dottoressa Tenenbaum. Bitte, non farle male, non hai cuore. Una bella predica dal mostro che si è inventato per primo quelle creature. Hai preso delle belle bambine e le hai trasformate in mostri, vero? Dammi a sentire, ragazzo. Non sopravviverai senza l'Adam che quelle cose trasportano. Sei pronto per barattare la tua vita, quella di mia moglie e mio figlio per i piccoli Frankenstein della Tenenbaum? C'è un altro modo. Usa questo. Liberale dal tormento. Abbi fiducia in me. Ne varrà la pena. Vedrai. Non c'è niente che tu possa fare per quella sorellina. Ma c'è qualcuno che invece può. Easy now, doctor. He's just looking for a wee bit of Adam. Just enough to get by. Stai bene? Era ora che qualcuno si occupasse di quel bastardo. Ora prendi la chiave da Steinman e torna all'accesso di emergenza. Io mi sto facendo strada per il retro di Port Neptune. Dovremmo essere lì presto. Con quella ci sviti un bullone o ci spacchi un cranio. Non c'è molto altro da fare qui sotto. Dannazione. Sento i botti di quel ricombinante come se fosse il 4 di luglio. Qui sotto è difficile trovare esplosivi, ma mettendo le mani su un plasmide telecinesi potresti prendere quelle bombe incendiarie del cavolo e rispedirgliele dove dico io, o contro qualunque cosa ti impedisca di proseguire. Sento i botti di quel ricombinante come se fosse il 4 di luglio. Qui sotto è difficile trovare esplosivi. Se solo tu riuscissi a mettere le mani su qualcuna delle bombe che sta tirando... Quella roba può cambiare le carte in tavola o aprire una strada. Dovrai trovare il modo di raggiungere la chirurgia e Steinman. Sulla testa ora. Il signore odia i perdenti. Dovrai derivare questo affare se ci tieni a vedere l'interno del padiglione medico. Adesso hai scatenato un bel vespaio. Eccoli, arrivano. Immagina di essere più intelligente, più forte, più sano. Di avere persino dei poteri straordinari, accendere fuochi col pensiero, È questo l'effetto dei plasmidi sull'uomo. Tieni duro! Vedrò di fare qualcosa per tenerti la testa fuori dall'acqua! Ora resta fermo. Il tuo codice genetico sta per essere riscritto. Non muoverti e tutto andrà bene. Ora hai conosciuto Andrew Ryan, il maledetto re di Rapture. Adesso prova l'accesso di emergenza. Bisogna tirarla fuori dal nascondiglio, ma dovrai fidarti di me. Ora ascoltami bene. Sta alla larga da quel Big Daddy, mi hai sentito? Non hai speranze contro di lui. Non dargli noia e lui non ne darà a te. Quell'Adam farà il caso nostro. Hai fatto la cosa giusta. Ricorda, quelle non sono persone, non più. E devono ringraziare la dottoressa Tenenbaum. Fa un bel respiro ed esci dalla batisfera. Prometto che non ti lascerò nei guai. Credi che sia una bambina quella là sotto? Non farti fregare. Ora è una sorellina. Hanno preso e trasformato una dolce ragazzina in un mostro. Qualunque cosa tu abbia imparato in superficie su ciò che è giusto e sbagliato, beh, non ha valore qua giù a Rapture. Quelle sorelline trasportano l'Adam, il materiale genetico che olia gli ingranaggi di Rapture. Tutti lo vogliono, tutti ne hanno bisogno. Quello è il Big Daddy. Lei recupera l'Adam, lui la protegge. Sta attento. Per cortesia, potresti abbassare quell'arma per un minuto? Ma Cristo, sei intrappolato! Provo a bypassare l'uscita da qui. Ci sono! Esci di lì! Subito! See if you can find a weapon nearby. Trust me, you'll be needing it. It's okay, lad. That's not a child. Not anymore, it ain't. Dr. Tenenbaum saw to that. I warned you to stay away from them behemoths. Wait until you're strong enough. Mi sa che hai esaurito Liv, il carburante che alimenta i tuoi plasmidi. Te ne mando una piccola scorta con la posta pneumatica. Sei rimasto ancora secco? Va bene, ti mando dell'altra IV via posta pneumatica. Tutte le strade di Rapture portano a Ryan. La sicurezza, i ricombinanti, i Big Daddy, le sorelline. Pompa nell'aria una specie di odore chimico. Feromone lo chiamano, per controllare tutti quanti. Non so come tu sia scampato a quell'incidente aereo, ma ho imparato a non discutere con la provvidenza. Mi chiamo Atlas e cercherò di salvarti la pelle. Ora muoviamoci. Ti riporteremo in superficie. Back contraption there, dole out plasmids. Ricordi cosa ho detto su giusto e sbagliato? E Ryan! Quel maledetto Andrew Ryan! Ci ha trovato! Dannazione! Ha chiuso l'accesso a Neptune! Ma c'è un'altra via d'accesso! Dirigiti al padiglione medico! Che cosa aspetti? Vai! Telecamere di sicurezza. Sento quegli aggeggi infernali tutto intorno a te. Sono gli occhi e le orecchie di Ryan. Una bella predica dal mostro che si è inventato per primo quelle creature. Hai preso delle belle bambine e le hai trasformate in mostri, vero? Stammi a sentire, ragazzo. Non sopravviverai senza l'Adam che quelle cose trasportano. Sei pronto per barattare la tua vita, quella di mia moglie e mio figlio per i piccoli Frankenstein della Tenenbaum? Se vedi un ricombinante in acqua, colpiscilo con elettroscarica. Un po' più avanti. Ecco, fa un bel sorriso, sorella. La Tenenbaum ti sta trattando come un idiota. Quelle cose sembrano delle ragazzine, ma l'apparenza inganna. Ti serve tutto l'Adam possibile per sopravvivere. I told you, Boyle. You're gonna need to go after one of them hulking big daddies sooner rather than later. Once you defeat one, their little sister and the precious Adam they're carrying will be yours for the taking. Se vuoi usare l'accesso di emergenza, ti serve la chiave del dottor Steinman. È lui a capo di questo posto. Ma non aspettarti che te la dia per pura cortesia. Steinman non è quel tipo di persona e, francamente, non sono neanche sicuro che sia ancora umano. Gli Tieni gli occhi aperti per Steinman. Quel bastardo ha messo su bottega nell'ala di chirurgia. Per trovarlo basta seguire il sangue. I plasmidi hanno cambiato tutto. Ci hanno distrutto il corpo e la mente. Non sapevamo gestirli. Amici che si massacravano tra loro. Neonati strangolati nella culla. L'intera città andò in malora. The Big Daddies are the toughest thing going down here. But if you don't bother him, then he won't bother you. But those little sisters, they guard the atom you need. You start the fight when you're ready to finish it. Vai in vista, i ragazzi di Ryan. Stai bene, ragazzo? Il primo plasmide è sempre una bella botta, ma non c'è niente come un pugno di fulmini, dico io. O no? Ascolta, ho una famiglia. Devo portarla via di qui. Ma i ricombinanti ci hanno separato. Se riesci a raggiungerla al Neptune's Bounty, forse, dico forse, so che ti senti l'uomo più sfortunato del mondo in questo momento, ma sei la sola speranza che ho di rivedere mia moglie e mio figlio. Vai a Neptune's Bounty, trova la mia famiglia, per favore. È una bimba, l'occasione per procurarti un po' di Adam. Sei pronto? È ora di affrontare uno dei Big Daddy. Non sarà facile, ma è l'unico modo per raggiungere le sorelline e l'Adam che trasportano. Dunque dimmi, amico, quale delle agenzie ti ha mandato? Il lupo del KGB o lo sciacallo della CIA? Ti informo, Rapture non è una nave affondata da saccheggiare. Andrew Ryan non è un tipo eccentrico che si fa prendere a schiaffi dalle ingerenze del governo. E con questo, addio. O da Svidania. Come preferisci. Come puoi fare una cosa simile a una bambina? Ma ci sono altre bimbe che hanno bisogno del tuo aiuto. Sarai così crudele anche con loro? Il sentiero della rettitudine non è sempre facile, vero? La ricompensa diventerà chiara. Sii paziente. Look at this one. Practically a virgin. Might be he'll get used to the gene juice. Now the poor dear won't have a chance. Yeah? Let's bark. Weak! You're a weak chopper! It's no fish, ain't worth towing it with my big daddy. Yellow! Always have been! You'll be no better off with the metal daddy, little fish. See you floating in the brine. Non so, ma il faro è avvolto dalle fiamme. Sembrerebbe un incidente aereo. Ma siamo nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico, come... Non ne ho idea. Meglio darsi una mossa. E alla svelta. I ricombinanti stanno arrivando. Come fai a sapere che sta arrivando qualcuno? Di cosa stai parlando? Scherzi? Perché c'è una batisfera in discesa. Significa che abbiamo compagnia. Su, prendi la radio. Quel ricombinante è ancora là fuori. A new face in Rapture. Hell, how long has it been? Quiet, Johnny. Rapture ain't no place for a showboat. Get to the bathysphere and don't take any chances. Some kind of fire on the surface. I don't know. You best get over there. Johnny! Johnny! No! Johnny, security's banging off all over. Get a move on! Nah, can't be. Raccogli quella radio a onde corte, per cortesia. Don't know. But the lighthouse is all lit up like hellfire. Looks like some kind of plane crash. There's gonna be splicers everywhere. Get out of there! Cause we got a bathysphere on its way down. Unless the thing up and sunk itself, that means we got company. Best get moving, and be quick about it. The splicers are coming. Stay away from her, or you will be shot next. Easy now, Doctor. He's just looking for a wee bit of Adam. Just enough to get by. I'll not have him hurt my little ones! It's okay, lad. That's not a child. Not anymore, it ain't. Dr. Tenenbaum saw to that. Bitte, do not hurt her! Have you no heart? Aye, that's a pretty sermon coming from the ghoul who cooked up them creatures in the first place. Took fine little girls and turned them into that, didn't you? Listen to me, Bio. You won't survive without the atom those things are carrying. Are you prepared to trade your life, the lives of my wife and child, for Tenenbaum's little Frankensteins? Here, there is another way. Use this. Free them from their torment. I will make it to be worth your while. Somehow. Quando il babbo è sotterrato, mamma ti vende al mercato. Quando mamma se ne andrà, sola lei ti lascerà. Quando sola ti lascerà, per te nessuno canterà. Zitta ora. La mamma è andata. E anche il papà. Aspetta, questo sta accadendo prima e non... Perché non sei qui? Perché è oggi e non allora, quando eri calda e dolce? Perché la mamma non può stringerti al seno e sentire i tuoi denti? No. È Steinman? No. Ma sfoghiamoci lo stesso su di lui! Che cosa hai in mente, Charlie? Charlie? Faccio quello che mi pare! È il mio Adam! Me lo sono guadagnato! No! Charlie! Charlie! Dove sei andato? Brenda! Stavolta hai esagerato, Brenda. Pensi che sia un idiota? Questo è l'ultimo avvertimento! Vuoi che la risolviamo con le buone o con le cattive? Come preferisci. Apri questa maledetta porta! Apri! On a two-day layover in Tampa, and the wife was madder than... Oh, looks like we've got a... L'ho ripreso, tirati su, forza, ce la faccio! Ah! Signore e signori, sono il capitano Cole Franklin. Sembra che ci sia un piccolo problema. Vi preghiamo di rimanere seduti e tutto si risolverà al più presto. North Atlantic Center, Galtania 430, this is Hogatia 420 at flight level 290, approximately 330 miles southeast Greenland. We've got a bit of a situation here. Dear Ryan, che mi dispiace, non lo farò più. No, ti prego, non farlo, salterà tutto, no! Security alert is in progress. Access is limited for the time being. We appreciate your patience. Allarme di sicurezza in corso. Allarme sicurezza disattivato. Grazie per la pazienza. Restiamo soli. Io, te e tutto il delizioso Adam che posso bere. Vede la luce che esce dal suo stomaco. Aspetta un attimo. È ancora vivo. Va bene. So che presto sarà un angelo. Guarda, Mr. Bolla. È un angelo. Guarda, è fresco, Mr. B. Questo vede ancora la luce del sole. Non posso toccarli quando vedono ancora la luce del sole, Mr. B. Mr. Bolla, dove sei? Porta caramelle, portami balocchi, dalli a me. Mr. Bubbles, are you there? Come and get me lollies, come and bring me toffees, teddy bears. Mr. Bolla, è un angelo. Vedo la luce che esce dal suo stomaco. Aspetta un attimo, è ancora vivo. Va bene, so che presto anch'io sarò un angelo. Hai promesso la bellezza, Stipen! Hai promesso la bellezza! Guardami ora! Guardami! Hai promesso la bellezza, Stipen! Hai promesso la bellezza! Guardami ora! Guardami! Sono troppo ricombinata! Troppo ricombinata! Adesso nessuno mi vorrà! Ok, ancora un minuto! La battisfera sta arrivando! Johnny, la sicurezza si sta attivando ovunque! Muoviti! Just one more minute! I can see it! The sphere is coming up now! Atlas, come fai a sapere che sta arrivando qualcuno? I'm opening the hatch now. I'll head over. Just let me go. You can keep my radio. You can. Atlas, stai scherzando. Lasciami fare. So quello che faccio. Mi lasci andare? Può tenersi la pistola? Può... Ma siamo nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico. Come fa un aereo a schiantarsi qui? Non ha senso. Atlas, no, I just need one more splice and I'll take these sons of bitches head on. Come on, Atlas, give me a chance. La prego, signora. Non volevo entrare abusivamente. Non mi faccia male. Mi faccia andare. Può tenersi la mia pistola. Può... Qualcuno di nuovo? Qualcuno di nuovo? La mia giovinezza, la mia bellezza! Vi farò a pezzi! Cosa succede, padre? Ancora col piattino delle offerte? O stavolta cerchi qualcosa di più elegante? Questo piccolo pesciolino sembra letteralmente esploso. Chissà se c'è ancora dell'Adam nel suo corpo. Sentito? Filiamo! Fifone, sei un coniglio! Per questo pesciolino non vale la pena provocare un Big Daddy. Codardo, come sempre! Il tuo paparino metallico non ti salverà, pesciolino. Ti vedrò galleggiare nell'oceano. Ding, ding, ding. tutti fuori col vestito della domenica. Fifone, sei un coniglio. Codardo, come sempre. Il tuo paparino metallico non ti salverà, pesciolino. Ti vedrò galleggiare nell'oceano. Pulire e lavare, strofinare e disinfettare. È magro, mi piace. Guardati, sei così, qualunque. Guarda cosa mi hai fatto, guarda cosa hai fatto! Posso sentire il tuo sapore, è disgustoso! Sì, dottor Steinman. No, dottor Steinman, mi spiace, dottor Steinman. Quando mamma e papà mi misero su un aereo per andare a trovare mio cugino in Inghilterra, mi dissero, figliolo... Tu sei speciale, sei nato per fare grandi cose. Sapete una cosa? Avevano ragione. Dunque, dimmi, amico, quale delle agenzie ti è mandato? Il lupo del KGB o lo sciacallo della CIA? Ti informo, Rapture non è una nave affondata da saccheggiare. Andrew Ryan non è un tipo eccentrico che si fa prendere a schiaffi dalle ingerenze del governo. E con questo, addio. O da sfidare, come preferisci. Visto? Visto cosa intendo? Non hanno abbastanza stomaco! Gli manca la volontà di grandezza! E tu invece? Vediamo se ce l'hai. Con le modifiche genetiche, la bellezza non è più un fine, nemmeno una virtù. È un obbligo morale. Obblighiamo forse il sano a convivere con il contagiato. Mischiamo... i criminali con le persone per bene. Allora perché permettiamo ai brutti di mischiarsi ai belli? No, Dea! Rovinerà tutto! Bisogna prenderlo! Le tue arpie devono farlo a pezzi! Cosa posso fare con lei, Afrodite? Non vuole stare ferma! Voglio renderle bellissime, ma poi qualcosa va storto! Quella... troppo grassa! Quest'altra... troppo alta! Questa... troppo... simmetrica! E ora... chi è questo? Dea! Un intruso! È brutto! Brutto! Brutto! Brutto! Perché abbiamo due occhi? C'è qualche legge che ci obbliga? Due braccia, due gambe, due orecchie, due seni. Sentito? Filiamo! Per questo pesciolino non vale la pena provocare un Big Daddy. Bitte, do not hurt her! There is another way. Use this. Free them from their torment. I will make it to be worth your while. Somehow. Here. How can you do this thing to a child? But there are other little ones who have need of your help. Will you be as cruel to them? I'll not have him hurt my little ones! The path of the righteous is not always easy. Yes, the reward will become clear in time. Be patient. Stay away from her or it is you who will be shot next! Bitte, do not hurt her! Have you no heart? Mi scusi. Mi scusi, signore. Mi scusi, signore, il tavolinetto. Per cortesia. Signore e signori, sono il capitano Cole Franklin. Sembra che ci sia un piccolo problema. Stiamo perdendo quota. I motori 1 e 3 sono in avaria. Esce fumo dal pannello e... l'ho ripreso. Tirati su, forza, forza, tirati su!